Buona serata a tutti e ben ritrovati da Mirko Cavallini Studio e di Daici alla parte tecnica. Continuano i nostri speciali serali del lunedì e del martedì, riproponendovi alcuni incontri, convegni, eventi che si sono svolti nel recente o recentissimo periodo nel nostro territorio diocesano. Qualche passo indietro, un paio di mesi, al 20 dicembre scorso, Sala Paladina di Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova, l'incontro con Luigino Bruni, che ha presentato il suo libro La foresta e l'albero, 10 parole per un'economia umana. Luigino Bruno è docente di economia politica all'Università LUMSA di Roma. Il dialogo con l'autore è svolto dal nostro direttore Guglielmo Frezza sul ripensare il dominio dell'economia e il ruolo della politica per una Padova che vuole cambiare. Buonasera a tutti, grazie per queste parole, grazie per l'invito. E grazie per aver pensato a questo mio piccolo libro per costruirci attorno una serata di dialogo con una città così importante, così bella. Io ho vissuto per un anno, ho lavorato per un anno qui a Padova su invito di Benedetto Gui, mio grande amico, quando ero appena tornato dall'Inghilterra, avevo finito i miei studi, fine anni 90, e qui all'Università di economia, da cui c'è Marina che siamo stati tante volte a casa sua, quindi ho anche un rapporto personale di amicizia, di riconoscenza per questa città e quindi sono stato molto lieto di ricevere l'invito a venire qui a presentare questo libro. Ora, visto che ho 20 minuti, cioè 19, cerchiamo di saltare un po' il preambolo e di andare ad alcune idee che volevo dirvi per anche darvi qualche spunto per il dialogo, perché non penso che tutti abbiano letto il libro, quindi per dare almeno qualche idea, insomma, di alcune, sono 10 parole, quindi anche semplice, sono 10 capitoli, alcune delle quali sono state già introdotte da chi mi ha preceduto, quindi non... Io volevo dire almeno tre idee che sono presenti nel libro, poi velocemente andare alla conclusione. Cioè, questo tema dell'economia e della politica che ha presentato Claudio all'inizio, che attraverso un po' le mie riflessioni, che non solo in questo libro, ma negli ultimi anni, perché c'è stato veramente un cambiamento nel rapporto con l'economia. Cioè l'economia dà luogo, diciamo, la fabbrica, l'economia dà luogo dello sfruttamento, che nel XX secolo si pensava appunto alla lotta di classe, no? Come diceva Marx, la fabbrica è la morfologia della società, tu vuoi capire il mondo, guarda la fabbrica, lì c'è il conflitto fondamentale che crea lavoro, è lì che struttura tutto il resto. Quindi la fabbrica, l'economia, non era considerata normalmente, nemmeno in Italia e in Europa, come il grande luogo della fioritura umana, come forse un po' in America forse è stato per un periodo. Nel Novecento la parola bella era democrazia, era la parola politica. Cioè noi abbiamo nel Novecento immaginato un mondo di partecipazione, dove la gente si impegnava, appunto, libertà e partecipazione. Abbiamo importato la democrazia dalla politica nelle scuole, organi collegiali, nella vita delle organizzazioni, in un certo senso anche nell'economia, le fabbriche, i sindacati. Cioè vuoi fare buona vita, porta più democrazia. Quindi la democrazia, come dicevano i filosofi dell'Ottocento, che è governare discutendo, questa bella definizione di George Stuart Mill, era diventata anche la scuola, governare discutendo, eccetera. Oggi, nel XXI secolo, la parola d'ordine, la parola, il paradigma di riferimento è invece l'economia, soprattutto il business, l'impresa. Vuoi fare qualcosa di serio, imita la grande impresa, dove c'è l'efficienza, c'è la razionalità, c'è la meritocrazia, altra parola che va molto di moda, che io nel libro, un capitolo si chiama Contro il merito, non a caso, e perché ciò che oggi è visto come l'immagine dell'eccellenza è esattamente la grande impresa nazionale, soprattutto le grandi imprese di consulenza globale, le multinazionali, che si presentano sempre più con un look, diciamo, interessante, con la new economy, Google, Facebook, a parte poi se pagano le tasse, ma comunque... L'idea, quindi, un buon politico deve parlare come parla un buon manager, deve usare il linguaggio dell'economia, quindi non sprecare l'efficienza, velocità, eccetera. gli ospedali buoni devono essere efficienti, la scuola, e dicevo anche la Chiesa, perché c'è una tendenza anche a importare certi paradigmi di, diciamo, di efficienza, di velocità in tutti i luoghi, siccome la cultura è una, il mondo è uno, evidentemente tutti rispediamo a tutta la stessa cultura. E questo personalmente, per, io questo lo considero un problema, perché il bello della politica, con tutti i suoi limiti, insomma, è dopo vi dico, è anche un fallimento della politica, questo emerge dell'economia, è una delusione d'amore, no? Le corruzioni, gli scandali, però diciamo nei secoli dove, come dice l'economista americano Hirschman, prevale la felicità pubblica su quella privata, lui immagina dei sciti, dei vitali, no? In certi momenti la gente cerca la felicità pubblica, in altri momenti, cioè, si supera una soglia e si torna a quella privata, il televisore, la famiglia. Questo, lui immagina un ciclo, quindi come dire, il culmine di una fase ha in sé, quindi speriamo che cominci di nuovo una fase di felicità pubblica. Comunque, quando la gente ama la politica, ama l'impegno civile, in fondo che messaggio dà e dava? Che esistono valori più grandi degli interessi personali. Quindi le grandi ideologie del Novecento, il cristianesimo, sociale, il comunismo, il socialismo, il cooperativismo, cioè gli esseri umani sono di più rispetto agli interessi, siamo capaci di passioni, di grandi ideali, sappiamo, come dire, nessuna terra promessa minore del paradiso ci basta per partire. Cioè vogliamo di più, noi ci accontentiamo dello stipendio, sì ci sono, ma però è paradiso su questa terra o su quell'altra. Allora, nel momento in cui queste grandi narrative vanno in crisi, ti restano gli interessi, quindi l'economia. Quindi in un mondo che ha perso il paradiso, ti accontenti, ma ti guardi in basso, ti accontenti dello stipendio, del consumo, di un Natale di shopping senza nessun bambino. Cioè, come dire, è una delusione, come accade nella vita. Volevo un mondo più grande, da giovane ho sognato un grande ideale, purtroppo da adulto mi sono accorto che era un autoinganno e mi accontento della macchina buona. Cioè, quindi noi siamo anche in un'età della delusione collettiva, che quei grandi ideali dei nostri nonni, la resistenza, un mondo uguale, l'uguaglianza, l'egalité, la fraternità e la libertà, erano dei sogni adolescenziali, ci siamo accorti che non è possibile. E quindi accontentiamoci degli interessi economici, sono più facili. Mettere insieme i contratti, eccetera. I patti sono troppo impegnativi, ci bastano i contratti. Pensiamo al matrimonio, no? In fondo, come dire, sposarsi per impegnativo, cioè, come dire, non è un giudizio, cioè, volevamo, immaginavamo un per sempre, accontentiamoci per un po', insomma, no? Cioè, perché finché è possibile. Ora, questo dobbiamo capirlo, altrimenti non si capisce perché la gente oggi guarda con grande stima l'economia, perché è la vita possibile in un mondo senza paradiso. Paradiso nel senso non, oppure quelli artificiali o quelli fiscali, no? Cioè, quindi tu, nel momento in cui, diciamo, abbassi il soffitto del mondo e coincide con quello di casa, ti accontenti della o economia, che è il governo della casa, l'economia, no? L'etimologia greca. Allora, questo è un po' il contesto di fondo nel quale io ho scritto questi articoli, che poi sono diventati un libro, con un'introduzione che è nuova. Dicevo tre idee. Uno è il tema del lavoro, che è legato al tema dell'incentivo. Qual è il messaggio che c'è dentro questo libro sul lavoro? Il lavoro è una realtà ambivalente, dobbiamo evitare l'ideologia di chi lo considera solo sfruttamento, ma di chi lo considera come fioritura umana sempre. Il lavoro è anche faticoso, anche il lavoro più bello, in certi momenti della vita è duro, lavorare a 25 anni e 50 non è uguale, anche il lavoro più creativo ha delle dimensioni di fatica e di noia, che sono le cose più importanti, che non puoi semplicemente farlo fare al segretario, devi farlo tu. Quindi anche il professore universitario, quel lavoro bello, devi fare verbali, esami, riunioni, e devi farle. Quindi ogni lavoro, ecco perché la Bibbia del lavoro ne parla sempre in modo complesso. Nella Bibbia il lavoro è legato agli schiavi in Egitto che facevano e fabbricavano i mattoni, ed è legato al lavoro dell'Adam nell'Eden che faceva fatica. Tutto dopo il peccato, diciamo, ma quindi sempre, perché prima del peccato la storia non c'era, quindi... Cioè non c'è una visione romantica del lavoro, il lavoro è una cosa bellissima ma molto impegnativa, non è romantica, non è una cosa vera, quindi è fare le cose più belle sulla terra e anche fare le cose più brutte, perché tanta gente muore lavorando, schiacciata da lavori sbagliati, tanta gente fiorisce lavorando, tanta gente sfiorisce lavorando, ieri, oggi e domani. Però il lavoro è una cosa importante. A me piace tantissimo il nostro incipit costituzionale, spero che non cambino anche quello, perché è uno dei più belli del mondo. Si poteva mettere in quell'incipit l'Italia è una repubblica fondata sulla libertà, l'Italia è una repubblica fondata sull'uguaglianza, sulla fraternità, che belle parole, sulla giustizia, no, sul lavoro. Perché è una base comune a tutti, almeno in una fase della vita, non sempre, questo è importante, perché da bambini non si lavora e non si deve lavorare, da vecchi non si lavora e non si deve lavorare. Oggi l'Italia è stolta, secondo me, è un po' tutto l'Occidente, perché fa lavorare gente che non vuole più lavorare, che è sfinita, 65 anni, e tiene fuori giovani di 25 anni che dovrebbero solo lavorare. Quindi quando un paese fa questo è un paese stolto, perché vuol dire, è il nonno che non va d'accordo più con il nipote, cioè vuol dire che c'è un conflitto, non generazionale, ma fa due generazioni, quelle in mezzo. Quindi non ci vorrebbe tanto per immaginare un grande patto che incoraggi fortemente il part-time per gli over 55 e crei lavoro per chi ce l'ha meno, per chi non è fuori a 25 anni. Ma noi le cose importanti, purtroppo, siccome sono troppo semplici, non riusciamo a farle. Quindi il lavoro, perché giustamente, come dice il direttore, io sono giù, sono preoccupato degli incentivi. L'incentivo è un'ideologia. L'incentivo viene dal latino incentivus, che era il flauto che accordava gli strumenti dell'orchestra. L'incentivus è la stessa radice di incantatore, di incantesimo. Cosa vuol dire? Io ti faccio fare cose che tu non faresti spontaneamente, pensando che le fai spontaneamente. Ti porto dove tu non vorresti andare. Io, proprietà dell'impresa, ti disegno un contratto perfetto per farti fare ciò che esattamente tu lo sottoscrivi pensando di firmare un contratto, perché è un contratto, in realtà stai vendendo un pezzo di libertà per il piatto di lenticchie. Quindi la ideologia dell'incentivo è molto semplice: se io ti pago bene, da te ottengo tutto, anche l'anima. Basta pagarti bene in modo razionale per estrarti tutto il tuo impegno. Siccome questa è una cosa molto difficile, l'impresa postmoderna, siccome sa che ha bisogno del, faccio sempre un esempio che è un po' banale, che non gli basta alla mia università il prof Bruni, perché gli studenti mi chiamano prof, io li chiamo stud, no? Non basta il prof Bruni, ci vuole anche Luigino. Cosa significa? Che se io do soltanto le mie pubblicazioni, i miei orari, gli esami che faccio, ma quando arrivo in classe, come tutti i professori sanno, tutti, chiunque lavora con dei giovani sotto sa, non ti fermi un attimo, lasci fuori le preoccupazioni, i guai e dici bene a questi giovani stamattina come posso andare meglio di me, del mio entusiasmo, della mia creatività, la voglia di vivere. Ma questa roba qua non è il professor Bruni, questa roba qui si chiama Luigino. E se io non ce la metto, semplicemente la mia università fallisce. Però l'università non può comprare Luigino, solo il professor Bruni. Quindi il paradosso qual è del lavoro? Che l'impresa ha bisogno esattamente di quelle cose che non può comprare, cioè di Luigino. Che se ha solo il professor Bruni, è tipico sciopero bianco di chi fa solo il contratto, l'impresa fallisce. Quindi fare a farsi dare Luigino quando non posso comprarlo? Qui si chiama dono, che è un tema immenso, di cui si parla anche un po' nel libricino. Però l'utopia del nostro tempo è pensare che se io ti pago in modo sofisticato, compro anche Luigino, promettendoti praticamente benefit, carriere. Se voi sentite veramente, leggeteli, i colloqui di lavoro di McKinsey, Accenture, le grandi società di assicurazioni, i fondi di pensione, quando vogliono assumere un giovane bravo, sono più bravi che vanno lì, sembra di ascoltare un colloquio motivazionale di selezione di suore o di frati o di seminaristi. Promettono le stesse cose. Non sto scherzando, eh? L'eccellenza, la remunerazione, la fioritura umana, la felicità. Cioè. Però peccato che questa roba qui spesso dura fino al primo burnout, dopodiché si cambia giovane, se ne prende un altro, che erano delle promesse spesso a scopo di lucro. Comunque, il lavoro è una cosa molto seria, ha a che fare molto col dono, con Luigino, o lo dono io o non c'è, ed è un grande mistero all'interno del nostro mondo contemporaneo, perché la grande sofferenza che c'è nel mondo del lavoro di oggi è che la gente ha l'impressione che non si veda Luigino ma solo il professor Bruni, cioè che c'è tanto dono in ogni lavoro ma i manager non lo vedono. Quindi c'è, come si sa ormai dagli studi, una sofferenza di malessere lavorativo, di persone che non si sono riconosciute nel lavoro. io ci metto tutto e nessuno se ne accorge. Quindi come una sorta di grido che viene dal mondo delle imprese, guardateci lavorare, perché non è nella mezz'ora che faccio in più che c'è il mio dono, è mentre lavoro. Cioè tu conosci qualcuno quando lavora. Questo è un tema molto importante, è un tema antropologico. Vuoi conoscere una persona? Sì, guardala lavorare. E finché non la vedi lavorare, non la conosci, puoi invitarla a cena, all'incontro, in parrocchia, a pregare, ma la conosci quando lavora. Quindi se tu non vedi la gente lavorare, ti perdi la cosa splendida, ti perdi l'accesso all'altro. Io ho fatto un'esperienza una volta, un mio amico, che conoscevo solo negli incontri della mia comunità, così, parlava sempre di cose poco interessanti, ma non si parlava mai, che era uno che sapeva meno parlare, no? Diceva delle cose, mi sembrava anche un tipo superficiale, finché un giorno non l'ho visto fare il meccanico. Dico, ma tu sei questo? Cioè, non glielo ho detto, ma l'ho visto io. Cioè, mentre lavorava, ti ha detto chi era. Quindi se tu la gente non la vedi lavorare, perché sei sempre in mezzo alle carte, uffici, riunioni sul lavoro, no? Quindi non sei in mezzo a lavoratori, non conosci i lavoratori, poi dovresti valutarli a fine anno con il questionario. Quindi questo grande tema di riportare i manager in mezzo ai lavoratori, sono troppo distanti. Quindi non vedono il lavoro, non lo capiscono, e non capiscono le persone, la gente soffre. Altro tema che c'è tutta nella parte sul merito, che è uno sviluppo di un mio lavoro che ho fatto su Job, che è anche uscito in questi giorni. Oggi mi ha telefonato un giornalista di Italia Oggi, un giornale economico, mi ha detto, ma lei perché da economista ha fatto un libro su Job? Perché Job è un libro economico. Job è la grande critica alla meritocrazia, cioè all'idea che esiste un rapporto fra la mia sventura, tra i miei meriti e la mia condizione economica. Cioè Giobbe dice, io sono sventurato, non ho più niente, non ho più nulla, mi avete tolto tutto, i figli, la terra, i beni, la salute, sono su un mucchio di letame, senza più niente, ma sono innocente, non ho nessun demerito. Quindi ha spezzato questo legame tra merito e condizione umana. C'è gente molto giusta che è soltanto sventurato, non ha fatto niente. È gente che è piena di beni e che è totalmente disonesta. Cioè non puoi dire nulla sulla virtù delle persone guardando i beni che ha. Questo è un tema meraviglioso che attraversa molto l'Antico Testamento, che con il cristianesimo è chiaramente molto empatizzato. Pensate semplicemente chi è il meritocratico nelle parabole di Gesù. Domanda. Il figlio maggiore parabola del figlio prodigo. Diceva, come io che sto qui con te, che merito tutto, tu dai questo disgraziato che non merita niente, con le prostitute, gli dai. Cioè la meritocrazia è il figlio maggiore che si lamenta col padre, no? Come logico. Comunque, chiusa parentesi, perché Giobbe è un libro economico? Perché oggi noi, perché oggi cultura economica, diciamo cultura del business, sta tornando l'idea che era, in Europa non era mai stata presente col modello cattolico, l'idea qual è? Che il povero è colpevole. È colpa sua, quindi non devo fare niente per aiutarlo, perché se è qui, se è sventurato, è pigro, è fannullone, è cattivo, non lavora. Quindi io sono esente da qualsiasi forma di impegno per lui, che era un modello più calvinista nordamericano, che via capitalismo sta arrivando a pari pari da noi. La mentalità che c'era nel mondo cattolico era un'altra, il povero è uno sfortunato e quindi va in qualche modo aiutato con strada sociale, con welfare state. L'idea che il povero è colpevole produce semplicemente che cosa? Che ognuno si faglia fare i suoi. Quindi che cosa mi lega a te? Se tu sei, diciamo, in difficoltà, in qualche modo te lo sei meritato, merito. E quindi ecco perché Giobbe è un libro economico, che Giobbe combatte contro questa cosa fino alla fine. In questo processo con Dio, lui chiama Dio a dire, colpa tua, tu devi spiegarmi perché nel mondo esiste il dolore innocente, non io a te. Io sono innocente. E fino alla fine lui dimostra questa tesi e dice no, perché a questo punto lui è talmente stanco che è tentato dal patteggiamento, no? Dopo anni, diciamo, di processi penali infiniti, lui dice guarda, pur di finire faccio sconto qualcosa anch'io, anche se sono innocente. Giobbe non lo fa. No, io sono innocente fino alla fine, non ho fatto niente, sono solo sfortunato, sventurato, ma non colpevole. Quindi attenzione, questa cultura della povertà come colpevolezza sta tornando molto fortemente anche nella politica italiana via cultura economica nordamericana. Va bene? Parlo troppo veloce? Fortunatamente siamo in Italia. Quando passa, diciamo, sono quasi uscito dalla Corea, era un po' più complicato parlare veloce lì. Anche perché le fasi cominciano alla fine, è complicatissimo. Tanto che quando c'è il traduttore tu parli e lui sta zitto, ma come mai sta zitto? Perché deve aspettare come finisce per tradurre. Non può essere simultanea, cioè, è simultanea ma consecutiva, no? Comunque, terzo messaggio, l'ultimo minuto che ho è questo: le virtù non economiche, di cui giustamente si parla nel libro. Io parlo dell'umiltà, pensate all'umiltà, no? Parola meravigliosa della vita, che è una virtù anti-economica. Se tu oggi in un'impresa ti mostri umile, cioè sei un perdente, no? Guarda quello lì, è umile, non è smart, non è... Cioè, è tutta la cultura del business, che è molto nordamericana, devi mostrarti sempre vincente, no? Mai ammettere un limite, la vulnerabilità, essere umile, vuol dire sì, no? Cioè, tra me qui, esattamente, è anti-umile la cultura dell'impresa. Invece l'umiltà della vita praticamente è tutto, o no? Tu vuoi dire che una persona è bella, ti dice umile, come persona, dice guarda che persona per bene, che persona in gamba, non si vanta, non... Invece se tu non ti vanti non fai mica molta carriera, tutto quando sei giovane, perché devi vendere bene il tuo curriculum vitae, devi sempre mostrare un po' di più di quello che effettivamente sei, con gente formata a valutare persone così, eccetera. Io non è che ho nulla contro, anche se sembra, il mondo dell'impresa, che è un mondo splendido. Sono giù con l'ideologia che si sta affermando, che è un'altra cosa. Perché l'impresa come fatto è splendido. È la visione dell'impresa teorica di chi non nemmeno lavora, che mi preoccupa molto perché è ideologica, astratta. Quindi quali sono queste cose? Ad esempio una battuta sulla generosità di cui parlo nel libro, no? La generosità è una grandissima parola della vita. È quasi, come dire, è quasi tutto la generosità. Una persona generosa nella vita, sempre quando c'ho i miei studenti e devo dare un consiglio, dico, siete generosi. Cioè non siete tirchi, non siete letti, sono taccagni, qual è un'altra parola antigeneroso, spilorcio, no? La gente che calcola tutto, da costi benefici, tu vedi una persona così e dici per carità, io non c'è mai amico suo, no? Cioè la persona generosa è qualcuno che ti viene voglia di diventarci amico, perché non misura, dice sempre di sì all'amico. Ad esempio, io personalmente ho avuto mio padre che era molto, ho ancora, che è vivo, che è un tipo generoso, un po' strano, un po', però ha sempre tempo per gli altri, dice sempre di sì, se si richiesta. Poi magari mamma si arrabbia perché è stata sempre a fare cose strane, però questa dimensione, anche perché la generosità si impara a casa, perché la generosità ha a che fare con la generatività, genere, cioè viene da genere generosità, da generare. Quindi tu, come dire, si diventa generoso guardando i genitori. Se tu da bambino hai avuto genitori generosi, diventi generoso anche tu. La cosa, come dire, che si acquisisce per osmosi, come dire, è poco virtù ed è molto natura, perché ha molto a che fare con l'ambiente. Ecco perché è difficile recuperare quando da bambino hai avuto attorno gente poco generosa. Tutto è possibile, però è dura. E quindi cosa significa? Che si perde, si è più generosi da giovani e meno da anziani. Si perde generosità invecchiando, questo si sa. Quando si diventa vecchi si è meno generosi quando si è giovani, purtroppo, perché si abbassa l'orizzonte temporale, si capisce attorno ai 50 anni che la vita finirà, perché uno finché è giovane pensa che di fatto sia infinita, 50 anni comincia a dire quando manca la pensione, quando manca la vita, quindi comincia a dire ma c'ho abbastanza sicurezze per campare, quindi bisogna mantenere la generosità quando si è anziani, perché tende a scappare. La misericordia, che è una bellissima parola, anche qui totalmente assente dall'economia, ti immagini, la misericordia. Mi piace molto la parabola del figlio prodigo, è la parabola sulla misericordia, che però va intesa bene, perché quella parabola sarebbe interessante completare le parabole. Sono degli autori che fanno questo, alcuni grandi scrittori, tipo Thomas Mann, che a un certo punto dice, non è in una lettera, negli anni 30, ho scoperto, non è una parabola, insomma, il racconto, che poi è un mito di Giuseppe l'Egiziano, è splendido, ha solo un problema, che è corto, lo voglio allungare. E scrisse 2000 pagine Giuseppe e i suoi fratelli, no? Che sono belli, cioè, almeno come il libro biblico, sono straordinari. Questo qui, ad esempio, anche altri scrittori hanno fatto questo. Hanno avuto, ad esempio, André Gide, che ha scritto La parabola del figlio prodigo col terzo figlio, lo conoscete? Che è splendida. Che lui... Non c'è nel libro, quindi posso dire, lo dico io, non c'è tutto, 600 pagine, 90 pagine. Lui immagina che quando torna il figlio prodigo a casa, c'è la festa e c'è il banchetto, il famoso vitello grasso, quando va a letto il figlio prodigo, trova il terzo figlio più giovane che stava a letto nella camera che lo aspettava e dice: vedi, ti ho aspettato? Dice: ah sì, perché? Dice: perché non ho messo i sandali, perché questa notte parto io. Dice: ah. Dice quindi, tu quindi farai ciò che io non sono riuscito a fare? Quindi cioè, tu farai, cioè, come dire, la libertà che non ce l'ha fatta, tu tenterai la libertà. Dice: sì, quindi parte. Cosa vuol dire? In sostanza, che non ci basta la casa del padre, noi vogliamo ripartire. Cioè, nessuna, cioè, anche se la parabola ha un altro significato, però i figli poi ripartono, tornano a casa, non è che stanno lì con noi. Quindi sono sempre temporanee le felicità con i padri, perché la gente dopo un po' ricomincia e riparte verso le prostitute, i maiali, eccetera. Cosa voglio dire? E poi chiudo veramente, il tempo è finito. Che c'è una dimensione della vita come incompiutezza, cioè che le soluzioni sono sempre provvisorie. Tu hai, ti capita un figlio che ha una depressione, e che dice: ok, ora passa. No, tutta la vita non ti porti quel tipo di problema. Ti si ammala una persona con cui vivi, una moglie, non è che dici: ok, ora facciamo, aspettiamo un po', qualche settimana. No, cioè le cose importanti tendono a durare, a ritornare. Io ho una mia amica che ha accolto una prostituta nella sua casa, nella sua comunità, e questa riscappa e torna lì, e questa, e dico: come, pensavamo sei mesi, 6 anni, 60 anni queste cose durano, no? Cioè, quindi ecco perché le virtù sono cose serie, sono habitus, sono fatica, sono impegno, non sono semplicemente sentimenti serali o dei film con la lacrimetta, cose molto serie, hanno a che fare con figli che tornano, poi ripartono, e devi tornare sempre lì ad aspettarlo che torni sto figlio, perché semplicemente è tornato un po' e poi l'altro è partito al posto suo. Quindi ci sono delle pagine belle sull'ospitalità, ma non c'è tempo su questo, che penso riguardi anche la vostra vita. L'ospitalità, che mi sono sempre chiesto come mai in tutte le culture c'è la norma di accogliere l'ospite, no? Lo sapete? Tutte, almeno quelle che si conoscono, sono sopravvissute in modo evolutivo. Perché non è spontaneo. Quindi lo devi mettere nei libri sacri, perché gli esseri umani non lo fanno naturalmente sempre. Tutto quando c'è crisi, scarsità. Perché Polifemo è condannato da Omero? Perché mangia l'ospite invece di accoglierlo. Lo divora. Cioè, perché Sodoma, si parla di Sodoma, a volte pensiamo che sia legato agli omosessuali, no. Perché i tre uomini che arrivano alle querce di Mamre, da Abramo e Sara, loro li accolgono, loro casa, tre sconosciuti, partono dalla loro tenda, vanno a Sodoma e invece vengono uccisi. Quindi questo è il grande peccato di Sodoma, è la non ospitalità. Questo è sicuro, poi le interpretazioni sessuali è un altro discorso. Cioè, i tre ospiti di Abramo diventano uccisi da questa città di persone cattive. Quindi San Paolo, quella bellissima lettera, siete ospitali, è successo, che sapete, no? Che qualcuno ha ospitato degli angeli senza saperlo. Mi sembra che sia la lettera, penso, ai Galati. Quindi, insomma, sono tematiche serie, l'unico modo per sapere quello che c'è scritto è leggerlo, no? Senza comprarlo si può anche noleggiare in biblioteca, ma mi fermo qui perché ho già superato i 27 minuti. E quindi poi magari, se avete voglia e tempo, possiamo fare un po' di dibattito, un po' di domande. Grazie. Grazie. Chiedo io subito un supplemento a Luigino Bruni, perché fra le tante cose c'è una frase che mi ha molto colpito. Poi me la sono appuntata e quasi verso la fine del libro, così dimostro anche di essere andato oltre l'introduzione. Dipende da dove cominciamo. No, la frase è questa, ha molto a che fare con quello che già ci raccontava, ma credo che possa aiutare ad una ulteriore riflessione. Gli esseri umani danno molto solo se sono liberi di dare tutto. Cosa significa? Fagli pensare dove ho scritto questo. No, riguardo il tema del lavoro, sempre degli incentivi. Certo, no? La generosità, certo. Io lì ho una piccola considerazione. Innanzitutto, io tante cose non è che le so prima, le so mentre le scrivo. Cioè la scrittura diventa bella quando è di scoperta. Non è che tutti mi faccio lo schema ho letto tutti questi libri, li metto insieme e faccio. Questo si fa quando fai un lavoro più accademico, un po', non sempre, i lavori creativi, non so. Ma se devi fare un saggio sulle, cioè, su delle parole come generosità, come altre parole che ho scelto, umiltà, bisogna mettersi a scrivere, avendo delle, è ovvio, bisogna lavorare come sempre, poi bisogna lasciarsi, come dire, ispirare dalla vita. Quindi questa cosa qui, ad esempio, l'ho capita mentre stavo scrivendo queste cose. Cioè, che cosa? Che le imprese hanno paura della generosità, perché la generosità è eccedente. Cosa significa? Se tu eri una persona generosa che fa la caposala, gli piace fare il lavoro che fa l'aiuto medico, cioè che fa l'aiuto primario, perché gli esseri umani sono eccedenti, cioè non ti basta il contratto, tu devi, la cosa più importante del contratto è la zona di confine con un compito di quello che è sopra di te. Quindi tu hai l'infermiera che tende, generosa, a svolgere delle mansioni che dovrebbe fare la caposala. La caposala, allora il manager odia queste cose perché non sono controllabili gli organigrammi. Dice, oddio, nelle zone, cioè le zone limitrofe sono molto pericolose perché non sa bene chi è responsabile, no? Allora che cosa succede? Che per gestire le persone le costringe a rinunciare all'eccedenza. Con quale conseguenza? Che il giorno che non c'è l'aiuto e ti serve un intervento di emergenza non lo fa nessuno, perché la gente è stata educata a fare semplicemente il contratto. Quindi tu ottieni molto dalle persone se le metti nelle condizioni di poter fare cose che non sono completamente controllabili dai capi. Perché se tu credi di controllare le persone interamente per gestirle, le persone si spengono e ti danno semplicemente il minimo. Le cose più belle le fanno finché possono, fuori lavoro, o un giorno si spengono e basta. Succede a tanta gente che a 45-50 anni implodono. Sono età molto importanti queste, perché o decolli o implodi. E questo dipende molto dallo sguardo di chi sta vicino, tutto dei responsabili, al lavoro, nelle comunità. Se ti guardano con generosità anche loro, quindi qual è il messaggio? Un lavoratore generoso fiorisce se ha vicino manager generosi. E se tu sei generoso e hai vicino della gente, diciamo, che è taccagna, e a cui dà fastidio la tua generosità e ti costringe al contratto puro, arriva il giorno in cui dici non ne vale la pena, il meglio di me lo do fuori. E quindi questa azienda si trova col prof Bruni, già più Luigino. Ma col tempo, nei lavori vocazionali, il prof Bruni senza il Luigino finisce, perché ti mette pure di fare il professor Bruni, perché ti manca l'energia del di più, dell'eccellenza. Va bene come risposta? Cosa dite? No, attenti alle domande, che poi... Le domande sono brevi, ma le risposte sono lunghe, quindi stiamo attenti. Giacomo Zanella, buonasera. Sera. Allora devo dire che il libro effettivamente si presta a tante letture e apre una enormità di argomenti sui quali si può parlare. Devo dire che anche il contenuto ha fotografato in maniera abbastanza perfetta quella che è la mia esperienza lavorativa degli ultimi anni da dirigente bancario. Le banche ogni tanto vengono citate nelle scritture. E quello che volevo dire è che una notazione è che quel tipo di sistema, quel metodo che è riferito alla meritocrazia, al progredire per obiettivi, eccetera, ha trovato dei lavoratori formati, delle maestranze che sapevano fare il loro mestiere e avevano una professionalità consistente. Non è stato capace, ed è qui che ha fallito, non è stato capace di creare e di formare dei soggetti lavoratori in grado di essere autonomi, di essere generosi. Quindi tutte quelle virtù che le aziende volevano innestare e costruire, di fatto sono state prive di radici perché hanno approfittato di quelli che sapevano ed erano capaci. E oggi, che siamo già al dopo di quello che lei ha scritto nel libro, ci troviamo con dei lavoratori che non hanno la stessa professionalità di coloro che c'erano 15 anni fa, che li hanno preceduti, ma soprattutto questa è che andava scritta sempre si possa evitare di ripetere lo stesso identico errore con le generazioni future. D'accordo. Sì. io sono molto d'accordo, totalmente d'accordo, che io credo che noi stiamo andando incontro a una crisi del capitalismo dovuta alla fine di questo patrimonio di virtù civili su cui abbiamo costruito il nostro capitalismo, che a un certo punto, non essendo più alimentato, finisce. Cioè, mi chiedo, domanda, io ho i miei studenti di università, insomma, sono ragazzi, hanno 20-25 anni. Cioè, che tipo di lavoratori formeremo noi oggi con gli smartphone? Oggi ragazzi di 15 anni, uno accanto all'altro, ognuno che gioca da solo. Cioè, questa cooperazione che si imparava giocando, questa capacità di azione collettiva che cominciava nelle azioni collettive fatte con i compagni. Cioè, noi a scuola, i ragazzi di oggi, i docenti, saranno dei lavoratori capaci di lavoro di gruppo domani dell'impresa? Perché l'impresa alla fine è azione collettiva. Non lo so, io qualche dubbio ce l'ho. Cioè, la resilienza alle crisi. Tutta l'educazione popolare, cristiana, ma anche comunista, che ti insegnava, perché è la stessa cosa, perché poi da bambino sono uguali, insomma. Cioè, che ci insegnavano da bambini all'educazione del carattere, a gestire, ad esempio, le frustrazioni, i fallimenti. Io oggi vedo una fragilità dei giovani di oggi impressionante, cioè che davanti a un fallimento, cioè questa appunto resilienza etica, cioè stiamo formando giovani così. Io vengo dalla Corea, finisco, mi ha colpito molto che i coreani e in generale i cinesi anche hanno rimesso il confucianesimo nelle scuole, l'hanno combattuto come la malattia, come l'anzian regime, diremmo noi, per 50 anni, 60 anni, per carità, il confucianesimo, la rivoluzione culturale, i cinesi. Oggi stanno accorti, sono così deboli i giovani, così fragili, che hanno rimesso l'educazione etica, cioè all'etica dentro le scuole, perché hanno capito che altrimenti questa gente qui non sa più nemmeno lavorare. Cioè questa, oppure nel Bhutan, nei paesi buddisti, che hanno come educazione fondamentale per i giovani la meditazione. E vedi che intelligenti, questi hanno capito che se la gente non c'è vita interiore, è fragile, cioè davanti a una prova, ma non dico un fallimento dell'impresa, ma che ti lascia la fidanzata. Cioè, come dire, questa dimensione umana, che vuol dire lavoro, vuol dire saper soffrire. Io, mia nonna era semi-analfabeta, aveva soltanto mettere la sua firma, che aveva fatto la prima elementare, con orgoglio lo diceva, ma aveva una capacità di soffrire impressionante, cioè come morta, con dignità. Cioè, a volte, cioè questa generazione di gente allenata dalla pietà a un carattere, dov'è oggi? Boh. La televisione, Facebook, fa questo, è una sfida, non per essere pessimisti, ma non è così ovvio. Non dobbiamo essere nostalgici, i nostri tempi erano più bravi, cioè eravamo diversi, però c'era una tecnica millenaria che abbiamo buttato via in 30 anni. Cioè questo, cioè abbiamo distrutto in 30 anni un modo di vivere, un'arte, un mestiere del vivere, che era cominciato almeno con i greci e col popolo di Israele, almeno. E oggi noi pensiamo con la modernità che basta un po' di tecnica per insegnare alla gente a vivere. Poi vediamo anche come queste persone qui moriranno, che non è mica semplice morire se non hai una cultura, se non hai un'etica, se non hai una fede. No? Vedremo. Ricordo sì. Il discorso sul merito, la lavoro di quello sui fattori. Ma voi applicarlo alla politica. Viviamo una politica, almeno questa impressione, che non prende chi sa valorizzare i talenti, pochi per esempio fanno camminare insieme, ma l'impressione è che viviamo una politica in cui anche per colpa di noi elettori è premiato chi divide, chi aggredisce. È un'impressione, come dire, così diffusa o come spero, o c'è una speranza, e che meccanismi possiamo mettere in atto perché la politica serva al talento, alle relazioni, al camminare insieme della società. La politica, ora insomma soggiorni dove parla di politica è complessa, insomma in Italia, a Padova, e non solo in Italia, in Germania, Berlino, Istanbul, in tante parti del mondo parla di politica, in America, in Inghilterra. Cioè non stiamo passando un momento semplice della storia dell'Occidente, cioè questa utopia che la globalizzazione avrebbe portato i paesi più vicini sta diventando complessa, cioè i paesi hanno fatto un rimbalzo su questo fronte, cioè si sono impauriti dell'apertura. Perché non possiamo dimenticarcelo, cioè, quindi non è una fase bella per chi ama la libertà, per chi ama la fraternità come noi, come me. Quindi, allora, come la politica non premia i migliori. Questa è stata sempre un po', cioè l'idea che la politica sia, chi conosce un po' di filosofia greca sa che a un certo punto ci fu un dibattito, insomma, faccio un po' romanzata, è meglio la meritocrazia o la democrazia? Qualcuno diceva, è meglio la meritocrazia, i meritevoli, sono sempre pochi, sono sempre, quindi una oligarchia. Altri dissero, poi stava la regina vincente, no, siccome è difficile capire veramente quali sono i più meritevoli, perché il merito è un concetto complicato, il merito dico io di che cosa, è meglio la democrazia, perché in qualche modo il popolo, cioè si compensano i meriti e i demeriti ed è un sistema più, cioè meno pericoloso. Cosa voglio dire? Che sì, riconosciamo il merito politico, ma oggi dov'è il merito politico? Cioè la virtù politica qual è? Cioè se oggi uno dovesse domandare, Luigino, veramente, tu dove vedi la... Non mi dite il bene comune, perché poi che cosa vuol dire non si sa. Cioè oggi il bene comune cos'è? Il bene del rifugiato che viene qui, il bene del piccolo proprietario che ha una casa e vuole mantenerla per i propri figli, il bene dei negozianti, cioè si è spezzato l'idea di corpo sociale unico, dove c'è un bene, perché il bene comune, ora non voglio farla lunga, rimanda a un concetto medievale di organismo, che siamo un corpo, Paolo, San Paolo, corpo mistico, se nel corpo fa male un dito tutto il corpo soffre, quindi se sta meglio il dito tutto il corpo sta meglio. Questa roba qui è saltata, perché non è più vero che siamo un organismo, perché oggi il bene comune di chi ha in mano, di chi possiede hedge fund, di chi ha fondi di investimento, ha la residenza fiscale a Monte Carlo, non è quello del povero che sta lungo la strada, cioè anche se siamo tutti italiani. È complesso dire, io credo, mi piace ad esempio dire una cosa, insomma, che non voglio entrare in politica, insomma, cioè che uno dei problemi della nostra politica degli ultimi 30 anni è che la maggior parte, non tutti, per cui siete qui presenti, siete anche in gamba, cioè davanti a una certa corruzione etica della politica, non vuol dire i soldi, quello è semplicemente la corruzione, cioè penale è la punta dell'iceberg, ma il cinismo, cioè l'accontentarsi degli interessi perché alle virtù non ci credi più, magari fai discorsi belli, però in realtà sai che poi contano i soldi. Quindi, come dire, io a volte mi ricordo quando andavo a certi convegni, uno in particolare, si parlava di bene comune con alcuni dirigenti, poi alla fine fuori di là del palco si mettevano a ridere, per dire, ma questi stupidi che cosa credono a queste cose? Cioè tu lo dicevi perché dovevi dirlo per fare bella figura, ma chi ci crede più? Cioè quindi questa idea che il popolo crede alle favole, ma la persona intelligente sa che sono delle storie che sono finite, con l'adolescenza, no? Quindi dopo la crisi degli ideali, questa politica cinica, che cosa ha fatto secondo me? Ha lasciato fuori le persone migliori. Cioè, la gente mi ricorda, la mia generazione diceva, io impegnarmi in politica, per carità, mi impegno nelle ONG, mi impegno nella società civile, mi impegno nel no profit, ma andare lì con quella gente, in Parlamento mai. Quindi c'è stata una selezione avversa, si dice l'economia, cioè abbiamo attratto con gli incentivi sbagliati le persone. Io mi ricordo quando 15 anni fa mi invitavano all'inizio a parlare nei congressi dell'UDC, del DS, non andavo molto più a destra, insomma, più o meno centro, una tristezza antropologica, vedevi questi giovani che erano già delle copie di quelli più che stavano sul palco, diventano anche loro già cravatta, vestito di blu a 20 anni, cioè che l'incentivo era il potere, i soldi, le macchine blu, e non come nel dopoguerra l'incentivo era un paese distrutto da ricostruire, che ha attratto i migliori. Quindi è un po' un problema di che tipo di essere umano abbiamo attratto nella politica alta negli ultimi, io parlo quella nazionale, negli ultimi 30 anni. Cioè questo per me è un problema fondamentale, perché non, ora c'è un cambiamento, attenzione, non possiamo negare che sia tutto, negli ultimi 5 anni probabilmente con queste crisi così gravi si vedono dei segnali anche di politici un pochettino più normali, ma il problema è che mancano le grandi narrative. Cioè la domanda di fondo è: riusciremo a raccontare storie più grandi degli interessi per impegnarci ancora per il bene comune? Cioè questo, perché finché avremo soltanto gli interessi di piccoli gruppi, oppure lo sdegno, la rabbia contro la corruzione, difficilmente costruisci un progetto con lo sdegno e basta. Ci vuole lo sdegno che diventi azione politica collettiva per grandi sogni. Vedremo. Secondo vedremo, il terzo mi cacciate perché non faccio io un'altra domanda. Eccolo. detto tutto quello che ha già detto, e questo riflusso, no, delle energie che hanno preferito spendersi altrove piuttosto che non. Ma è vero, secondo lei è vero questo qui? Sì, anche io penso che sì. C'è un sacco di gente in gamba nel civile, sì, oggi in Italia. Sì. Però quello che volevo domandare è, a volte ho la sensazione che sia troppo facile, no, mettere tutto il bianco da una parte. Non è che i mali della politica, non è che un certo ingrigimento, non è che una certa banalizzazione anche di linguaggi e di ideali ha contaminato anche questi mondi associativi, dei movimenti, della cosiddetta società civile, sempre lungo questi anni, e noi scontiamo oggi un impoverimento forte che rende difficile anche un ripresentarsi sulla scena, al di là di tutti i cambiamenti sociologici che ci sono stati nel Novecento per questi soggetti. Ma come dicevo all'inizio, il mondo è uno, no? Cioè, quindi è ovvio che c'è una cultura dominante che condiziona tutto, ma io non credo, ad esempio, personalmente, io non credo che ci sia stata una grande influenza negativa della politica nei movimenti cattolici o c'è stata, diciamo, questo sì, come sempre, negli ultimi, secondo me, 20 anni, c'è stata una cattura da parte di una certa politica di una parte di società civile, questo è sempre stato, cioè dei sindacati in passato, un po', cioè che la politica ha occupato anche con le sue categorie, i sindacati, però io credo che una certa crisi del civile in Italia, anche ecclesiale, è interna, cioè un invecchiamento naturale di certi, soprattutto la fine delle grandi narrazioni. Noi non ci rendiamo conto che cosa è stato questo, cioè noi tutti, cristiani e non, cattolici, credenti, atei, agnostici, cioè, in realtà noi abbiamo perso un patrimonio narrativo impressionante in pochissimi anni. Cioè, ciò che ci raccontavano da ragazzi, no? Il fatto che sulla fede, sul mondo, cioè oggi non riusciamo più a raccontarlo ai nostri figli, cioè i simboli, i codici simbolici, li abbiamo distrutto tantissimo, e quindi questo agisce molto nelle organizzazioni ideali, nelle quelle che noi chiamiamo organizzazioni a moventi ideali, perché c'è un disincantamento del mondo, si è abbassato il tetto di tutti a livello generale, questo rende difficile anche il civile, non solo il politico. Oggi la Chiesa, e in genere non dico la Chiesa come istituzione, ma la fede, e non solo la fede cristiana, ma la fede religiosa, vive una crisi enorme. Cioè, se lo si vede da due segnali fondamentali, da un'eventuale riduzione, cioè da una evidente riduzione della pratica religiosa, ma anche da un ritorno di fondamentalismo religioso, di misticismo, di consumismo emotivo nelle chiese molto forte, cioè di una fede tutta gestita sull'irrazionale, sull'interiorità, su esperienze eccezionali, che sono un segnale molto forte di una crisi molto grave della fede cristiana, che è tutt'altro che questo. Quindi, ma perché? Perché è cambiato troppo il mondo, il linguaggio. Io ricordo una esperienza qualche tempo fa interessante, che era una scuola di economia a Sud Italia, dove si parlava di reciprocità, di dono, di gratuità, un po' i miei temi, no? Cioè la cosa, l'economia civile, quella di comunione, con dei giovani, diciamo, della zona, più organizzata anche da alcuni movimenti cattolici, ma non ragazzi, giovani di oggi. A questo punto, l'ultimo giorno viene il vescovo per la messa, un po' di adulti, mi giro, non c'è nessuno dei giovani che doveva stare, cioè, dove stanno questi? Esco, vado fuori, ritrovo nel sagrato a parlare. Parlavano di gratuità, di dono, di reciprocità. Non sapevano che dentro si faceva la stessa cosa, non riuscivano a capire, non c'è più il ponte che ti dice guarda che su quell'altare si sta dicendo quella roba lì, in un modo diverso, ma anzi ma più forte, l'Eucaristia, Eucaris, la buona gratuità, che si celebra la comunione. Però appunto c'è di mezzo un muro, che è un muro ormai larghissimo. Quindi chi capisce oggi il linguaggio del Novecento della Chiesa è gente, è l'1%, l'1 per 1000, è un po' strano ogni tanto. Cioè che è capace di essere attratto dal linguaggio religioso nel senso tradizionale. Allora perché dico questo? Perché se chi oggi ha cuore alla fede non fa un'operazione profonda, enorme, di inculturazione semantica, di cambiamento dei registri simbolici, di raccontare le storie di ieri con il linguaggio di oggi, fra 5, 10, 20 anni saremo quattro gatti eppure un po' strani. Perché? Ma non perché è invecchiata la fede, perché il mondo è cambiato. Come diceva Bonhoeffer, questo grande teologo, anche biblista protestante che è morto perché partecipò alla Rosa Bianca contro Hitler, l'ultimo giorno di guerra fu ucciso, per la cattiveria. Lui è un personaggio geniale del Novecento, in una lettera dice questo, dice noi se vogliamo evitare, siamo nel 45, se vogliamo evitare, cose note la maggior parte, ma lo ripeto per quei due che non è, se vogliamo evitare, diceva a Maria, la sua fidanzata, il cristianesimo diventi un tappabuchi, diceva lui, cioè per i funerali, per le feste, ma esca dalla vita quotidiana, nel 45 siamo, dobbiamo fare un'operazione simile a quella che fece San Paolo, che fece un'operazione pazzesca, dice lui nel cristianesimo, disse, e quindi fu molto dura affermarlo con gli altri apostoli, si può essere cristiani senza essere ebrei, senza essere circoncisi, che era una cosa pazzesca per gli ebrei cristiani del tempo di Paolo, che Paolo praticamente opera 2-3 anni, 4 anni dopo la morte di Gesù, noi che parliamo di secoli, e lui riuscì a dimostrare teologicamente, con battaglie umane, teologiche, che era possibile essere cristiani. E lui dice, cosa dovremmo dire oggi, dice Bonhoeffer, si può essere cristiani senza culto, dice oddio, 1945, cioè il cristianesimo deve essere legato, ci vuole una rivoluzione profonda se vogliamo parlare al quotidiano di oggi e non lasciare la fede per ogni tanto la festa, il matrimonio. Chi lo fa questo oggi? Ci vorrebbe un coraggio che non abbiamo, un coraggio teologico di mettere mano a tutto un codice, un simbolico di linguaggio che ci ha formati, e qui siamo molto affezionati, ma che non parla più ai giovani, che i giovani sono molto belli, io li conosco come tutti voi, ciò che fanno tutti i giorni, c'è una bellezza del giovane naturale, vocazionale, che è fatto per questi grandi valori, semplicemente parliamo un linguaggio che, come dire, ci vuole un codice ci vuole una stella di Rosetta, che traduca, che faccia incontrare due mondi con la terza lingua e finalmente si possa tradurre, diciamo, l'egiziano. Ma se non c'è una nuova lingua che si scopre, è dura, secondo me. Ma una domanda molto terra a terra. Prima, se ho ascoltato bene quello che dicevi, dici che basta poco per fare un patto tra nonni e nipoti. Una proposta, sì. Allora, siccome ieri sentivo una notizia alla radio che in Italia, anche al nord, al sud ancora di più, quelli che hanno un'auto che costa più di 100.000 euro sono molto di più di quelli che denunciano più di 100.000 euro. Al che io dico, ma allora è semplice trovarli quelli che evadono o che non denunciano tutto, ma sembra non essere così semplice. Tu dici è facile fare questo patto per il lavoro, eccetera. Allora io chiedo al professore ordinario di economia politica presso l'università. Sì. Da un punto di vista economico, quello che stavi dicendo è sostenibile, è praticabile? Perché a me piacerebbe qualche volta, quando parlo con qualche parlamentare, dimostrargli che è praticabile. Sì. Chiedo a Luigino, coordinatore del progetto di economia di comunione e amico di MPPU, assolutamente, amico, sostenitore, sostenitore, eccetera, allora, se possiamo sperare, se c'è speranza, che la politica torni ad esercitare un ruolo e le istituzioni per arrivare ad essere garanti, oltre che propositori, di un patto come questo che stavi dicendo. Guarda, io, grazie Claudio, dico due cose, che sembra apparentemente... C'è il microfono. Sì, c'è. Ah, bisogna accenderlo però. Dico due cose. Questa domanda sulla sostenibilità economica è una domanda che viene sempre, una domanda, è un'istanza che arriva quando c'è una non volontà politica. Faccio un esempio, non dico in te, ma nel dibattito. Qualche tempo fa, io sono ancora in piena battaglia sul campo contro l'azzardo, no? Chi mi conosce lo sa, qualche anno fa facevamo partire questo modello slot mob da un'esperienza molto semplice, non ne potevo più di far colazione nei bar con le macchinette, gratta e vinci, e da lì partì un'azione insieme ad altre che oggi ha coinvolto più di 150 città italiane e ora anche in Brasile, anche Padova lo so, qui avete fatto proprio qua, quindi complimenti e bravi, non mollate, bisogna insistere su questa cosa qui, perché tutti i giorni la gente muore per mangiare dall'azzardo, non è che ogni tanto, perché non si poteva, allora un'azione di premiare i bar virtuosi eccetera, cose che sapete. Quando noi arrivammo al sottosegretario Baretta con delega a Giogo del governo precedente. Quale fu il punto? Lui mi disse, a 2-3 dal suo ufficio, non passa in commissione bilancio perché manca la copertura economica. Cioè, cosa vuol dire? Siccome, cos'è che non passa? Il divieto di pubblicità assoluto, siccome fa ridurre il fatturato dell'azzardo dai 90 miliardi, magari si riesce ad arrivare a 80, quindi si perde 1 miliardo di entrate fiscali, perché lo Stato italiano fa 8 miliardi l'anno con tasse sull'azzardo, 8 miliardi sulla morte dei suoi concittadini, è ovvio che non gioca la copertura, perché se per, devi ridurre i soldi, cioè devi dire noi accettiamo di perdere 1 miliardo per il bene comune. Ma se tu mi dici manca la copertura finanziaria, che è evidente perché ti facevano dare meno soldi, significa che non lo vuoi fare. Cioè, molto semplicemente. Quindi è ovvio che manca. Ma è proprio lì il problema, deve mancare, perché io voglio che tu faccia meno soldi con l'azzardo e che trovi i soldi dall'altra parte, come tutti, oppure o meglio, non li trovi. Si fanno tagli agli F, come si chiama, 35, si spende meno le. Cioè, cosa voglio dire? Non è che i soldi di un paese sono un dogma, una specie di dato di natura che sono quelli. Sono innanzitutto un problema politico di dove li prendiamo e come li spendiamo. Si chiama la gestabilità, una volta la finanziaria. Sono endogeni, si possono aumentare, possono ridursi, possiamo decidere anche di essere un po' più poveri ma più giusti, ad esempio eliminando questa piaga pazzesca dell'azzardo legale di Stato. Secondo, quindi è sostenibile una riduzione, non l'ha fatta mica io questa proposta, l'ha fatta il ministro Giovannini, ministro del lavoro nel governo Letta. Quando stava arrivando a discutere in Parlamento, dando incentivi, qui si può utilizzare però l'incentivo che è buono, forti agli over 55 per un part time serio e liberare posti di lavoro per i giovani. Stava arrivando in Parlamento, il governo giustamente, come disse Renzi, stai sereno, stai sereno Enrico, è finito, eccetera. Non voglio rimpiangere assolutamente, ma per dire che non è una mia idea individuale privata, dico solo che tenere a lavorare gente che non ha più voglia di lavorare. Perché sono dei lavori, quasi tutti, che dove uno arrivato a 65 anni, cioè farebbe bene in altre cose, non è che dovrebbe occuparsi d'altro. E quindi c'è gente che, se è vero quello che dicevo prima, se è vero che tu non conosci una persona finché non lavora, se tu un giovane non lo fai lavorare, gli impedisci di conoscersi. Perché non si diventa adulto finché non si lavora, finché sei a casa con la mamma, quando vuoi, finché non c'hai un responsabile che ti fa il cicchetto, il feedback del manager che ti dice non si fa, non diventi grande e quindi tu impedisci a gente di diventare adulto. Questo è il problema, che il lavoro è il crisma dell'adultità, no? È ovvio che è un problema politico, ma ci vorrebbe un movimento che comincia a dire seriamente. Certo, Tito Boeri, ma cosa tenta? Ma troppo, sono delle cure, diciamo, con l'aspirina, insomma, davanti a una persona che è molto malata. Secondo, la politica. Tornando all'esempio dell'azzardo, io sono molto giù con i governi negli ultimi 25 anni, tutti, perché lo Stato ha sempre avuto un ruolo fondamentale per proteggere i poveri dagli sfruttatori. Cioè, cosa voglio dire? Ci sono sempre stati irrazionalità nel mondo. Cioè gente mangiata da maghi, indovini, cartomanti, cioè persone più fragili finiscono nelle mani di quelli che gli leggono il futuro, che gli fanno le guarigioni miracolose, no, a volte anche. Allora, chi è che proteggeva queste persone? Non il mercato, perché il mercato vive esattamente di asimmetrie informative. Io so di più, so di meno e faccio guadagni. È l'istituzione che mi protegge questo tipo di situazione, combattendo esattamente le simmetrie informative, dicendo sono delle stupidaggini, non si sfruttano i poveri con queste cose, no? E oggi lo Stato fa 8 miliardi con l'azzardo, cioè questa è la cattiveria del nostro tempo. Cioè che invece di proteggere queste forme di razionalità che tu ti affidi alla dea fortuna per campare, li incoraggia, li incentiva per fare cassa. Questa è una gravità assoluta. Quindi io spero, vedi, io finché un governo non viene e mi dice sull'azzardo cambiamo veramente rotta, abbiamo sbagliato 25 anni fa a renderlo legale, dovevamo semplicemente combatterlo, magari di più le legalità, torniamo indietro, togliamo le macchinette dei bar, togliamo le concessioni alle aziende for profit che fanno milioni di euro incentivando l'azzardo, che è il loro mestiere, ma diamoli in mano di nuovo veramente allo Stato, magari un po' migliore. Dunque, io non posso credere a una eticità della politica, perché è troppo grave. Non è solo questo, questo è un esempio evidente. Non voglio farmi discorsi sul bene comune, perché tu stai mangiando centinaia di migliaia di famiglie fragili, non protette, per fare 8 miliardi di cassa. Questa è una cosa incivile, è impossibile. Cioè, non è qualcosa di piccolo, è molto grave. Non è un problema solo del mio compaesano che si è suicidato quando c'è la campagna era iniziata, un marocchino, cioè i casi estremi, o quello che chiamano il GAP, azzardo patologico. Non è patologico quello che si ammala, è patologico ogni euro che fece una macchinetta e nei gratti e vinci. Ora a Natale gente regala ai nipoti per regalo dei gratti e vinci, che non si rendono nemmeno conto di quello che stanno facendo. È così. Perché cosa vuoi che sia? Ma anch'io fino a 4 anni fa non me ne rendevo conto di quanto grave sia questo sistema. Anche perché, chiudo, i gratta e vinci crea più dipendenza delle slot machine per la quasi vincita, cioè quelle vincite che sono inferiori al prezzo del biglietto che ti fanno giocare ancora. Sapete questi meccanismi? Ma perché, come diceva giustamente un politico l'altro giorno, venerdì, non dico chi, in un dibattito a Roma, noi dando 90 miliardi l'anno come fatturato l'azzardo, quindi con profitti molto grandi dati ad aziende e camp che fanno investimenti per sviluppare il proprio prodotto, noi stiamo finanziando oggi l'azzardo del futuro, di gente che fa ricerca psicologica, neuroscientifica, per creare sempre più dipendenza con i soldi che fanno oggi, finanziano fiore di scienziati. Io sto facendo una tesi di dottorato, sto seguendo in Francia, di una studentessa mia di Roma, il mio dottorato, che ha costruito una slot machine per topi, non sto scherzando, con un neuroscienziato di Tours in Francia, per vedere come nasce la dipendenza da luci e suoni nei topi. Perché lì è un problema che sono costruite per programmare dipendenza, con i colori di Ratti e Vinci, con i colori del... Ora faremo anche la Ratti e Vinci per topi, ma ancora siamo fermi ancora alla slot machine, che è già abbastanza rivoluzionaria. Quindi spero in una politica migliore, ma i segnali sono molto poco incoraggianti, almeno da questo punto di vista in Italia. Una domandina da parte mia, tutte queste parole che ci ha raccontato questa sera, no, come si possono applicare? Perché abbiamo parlato molto di noi stessi, dell'Italia, la nostra società, come si possono applicare il rapporto tra l'Italia o la nostra Europa e il resto dei mondi che vediamo attorno nelle situazioni in cui sappiamo che sono e con... poi tutte quante le conseguenze che arrivano anche qui e che a loro volta creano una difficoltà sociale percepibile, qualcosa ricordava prima Claudio, ma tante altre se ne potrebbero dire. Senza chiederti troppo, però comunque quello che diceva adesso il direttore fa il paio anche con una situazione davvero molto strana che noi stiamo vivendo in città, cioè non c'è mai successo dal 1904 in qua di avere un commissario, di essere in una situazione così straordinaria dove anche i luoghi della discussione non ci sono. Noi non abbiamo più la possibilità di venire in comune e dibattere liberamente, perché c'è un regolamento che vieta di fatto di entrarci se non paghi. E siamo in una situazione dove per 6 mesi almeno saremo senza un governo, saremo senza un luogo anche di confronto, di incontro, dove scambiare le parole, i significati delle parole diventa anche impossibile, perché si mette a fare la spesa, però okay. Il tema della Civitas. A me diciamo che sarebbero miliardi di cose da dire. Io intanto vi ringrazio molto per queste. Io sono arrivato stanco e riparto riposato, questo consegno, non sto scherzando. No, è un bel clima di dialogo, di fiducia. C'è una bella metafora che si utilizzava in passato per esprimere la differenza fra Atene e Sparta, no? E Sparta era molto silenziosa e molto organizzata in Grecia. Atene era molto chiassosa e molto confusionaria, perché l'Atene c'era semplicemente la democrazia, si parlava un sacco. E quindi c'era questa idea che se tu vuoi la guerra devi avere gente, cioè più un paese è democratico più chiacchiera, più parla, più discute, e il giorno in cui smette di parlare è molto brutto, come nelle famiglie, no? Quando smette di litigare, e spesso siamo sull'orlo della separazione, cioè quindi la dimensione della, però della piazza. Io, scusate, dico solo una battuta, io penso che noi dovremmo, come piccola, piccola, un po' torniamo all'Europa, come piccola domanda, come piccola proposta di politica anche locale, ricreare di più gli incontri reali fra le persone. Cioè a me preoccupa un po' una politica giornata tutta sulla televisione. Non è recente questo, è più è antico, ma è sempre più vero. Cioè che tu il politico, i dibattiti si fanno nei faccia a faccia televisivi decisivi, tutto si gioca nei talk show. Quindi cosa vuol dire? Alcune cose. Uno, che fa, che è successo, chi sa parlare bene e chi è bello. Che non è secondario. Perché tu hai un politico che è un uomo serio, non molto bello, non molto spigliato, non lo vota nessuno. Perché no, perché è così, perché devi essere anche capace di far bella figura in televisione. Non tutti sono così. E, mentre io credo che in un tempo come il nostro dovremmo ritornare di più alla piazza vera, cioè all'incontro, a stare insieme, a ricreare quei luoghi dove la gente dialoga veramente, non dialoga guardando, cioè tutti zitti davanti a un televisore. Questo è il dialogo della politica, cioè dove ognuno sta a casa da solo in silenzio, e sia la politica dove due chiacchierano davanti a milioni di persone in silenzio. Cioè questa politica, secondo me, certo avrà il suo, il mondo va avanti, non bisogna essere conservatori, restauratori, assolutamente, di passamento, è ovvio che ci sono mille bellezze nei social media, nei social network, in tutto. Ma io credo chi oggi vuole costruire politica dovrebbe cominciare dall'incontro col corpo, perché il corpo è un grandissimo tema. Cioè il problema dei media è che non c'è il corpo. Quindi tu puoi, ecco perché puoi offendere la gente, tanto non ti vede, dici cose che non diresti mai. Io ho scritto un articolo, ci trovo un criterio. Dico, per capire cosa, se è un buon messaggio quello che tu stai dicendo a qualcuno sulla rete, devi domandarti, ma quando lo incontrerò dal vivo, questo messaggio mi aiuta o no nel rapporto? Che noi diciamo un sacco di cose che non diremo mai dal vivo, semplicemente perché manca il corpo, non vedi il rossore delle guance, l'occhio lucido, e quindi dici cose anche, cioè tante parole anche, come dire, inflazionate. Vorrei, tu hai mandato 50 cetti e 1000 ti voglio bene a 20 persone, come fai a dirlo a uno veramente? Cioè, che è diverso da quegli altri, no? Cioè, questa inflazione di cose serie, sono pericolose. Quindi questa educazione sentimentale, no? Perché, cioè, nuova nell'era di internet, bisogna una cosa molto seria. Questo vale molto per la politica, ricreare rapporti col corpo, dove tu senti l'altro, vedi la faccia, vedi le emozioni, vedi i colori del volto, e da lì ricostruire una civita. Ecco perché il locale è fondamentale nella politica. Cioè, secondo me, se l'Italia ha un futuro, sarà un ripartire dai paesi, dei quartieri, dalle città dove la gente vive, altrimenti siamo sempre in televisione. Questo è stato molto evidente nell'ultimo referendum, ma insomma non c'è tempo. L'Europa, io per dono, insomma, mi trovo da una ventina d'anni a occuparmi di economia di comunione, che ha una caratteristica fra le tante belle che ha, che è mondiale. Quindi ho il dono di una volta al mese almeno di andare fuori Europa e di vedere il mondo tornando a Fiumicino. E se uno supera lo shock dei tassisti a Fiumicino, che ho già una mala carta di credito, quando devi andare da Fiumicino a Roma, sempre da Roma a Fiumicino, questo è un mistero. Comunque si scoprirà. Comunque, quando torni in Italia e atterri a Roma, dall'Africa, dalle Filippine, dalla Corea, da Sud America, c'è sempre un'esperienza per me, la tristezza, non sto scherzando, cioè la gioia, i bambini per le strade che tu trovi nei paesi più poveri, non lo so più, cioè il silenzio, e poi siamo in Italia, immaginate se siete errate ad Amsterdam o a Charles de Gaulle, cioè il silenzio di questi luoghi, la mancanza di bambini per strada, soprattutto le facce, sto scherzando. Quindi noi possiamo fare mille leggi di stabilità, manovre, ma se non troviamo la gioia di vivere, che è molto legata a queste narrative di cui parlavo prima, cioè dar senso, un senso collettivo, perché mentre il divertimento può essere una faccenda individuale, si può andare a fare appunto i fanghi ad Abano, si può anche da soli, ti puoi anche riposare, ma la gioia è sempre collettiva. Cioè tu difficilmente sei in gioia da solo, io non ci riesco, non so voi, a che fare con progetti con gli altri. Quindi tu andrai in questi paesi che hanno un sacco di, senza parlare dell'Africa, ma hanno questa voglia di futuro, una fame di vita che noi non ci abbiamo. Quindi l'Europa Ecco perché secondo alcuni miei amici non c'è speranza, loro dicono no, è il passato. Purtroppo i pensieri degli intellettuali che spesso sono molto duri, molto duri, quindi sono un po' antipatici, perché la gente vorrebbe sempre, ora io non sono un grande intellettuale, sono uno che penso un po' e scrivo, però anch'io ho questo problema, e quando faccio un'analisi la faccio leggere a persone buone, dico sì, però manca speranza, manca la prospettiva. Dico, ma tu dove trovi la speranza? Si va a fondo, dico, dov'è la speranza? Dico, tu pensi che quando, non so, prendiamo un grande autore, no, non so, Dostoevsky, vedete, uno dei più grandi, raggiunge i suoi personaggi, il giocatore, non so, questi personaggi ultimi, fino nel loro dramma, tu pensi che lì, che in questi autori la speranza è mettere il lieto fine? No, semplicemente vederli. È quella speranza. Che tu, diciamo, riesci a vederli nel loro dramma e raccontarli. Invece noi vorremmo sempre che ci metti, sì, alla fine vi siamo tutti felici e contenti, no? Cioè, che queste analisi finiscano con la bella conclusione che edifica, diciamo, le anime. Beh, la vita ha una sua dimensione tragica che va riconosciuta. Cioè l'Europa oggi oggettivamente è in declino. Cioè possiamo avere i miracoli, possiamo avere, però questa gioia di vivere era molto legata a cristianesimo, a socialismo. Cristianesimo più antico che molto, cioè ha delle grandi narrative collettive che sono finite. Il cristianesimo non è finito del tutto, ma diciamo soffre molto come fenomeno collettivo. Allora l'Europa era soprattutto questo. Sarà capace di rigenerarsi con altri progetti collettivi? Non lo so, sembra di no. Ora, no, ripeto, non voglio fare il pessimista fine alle 10.45, però e questa è la domanda. Con alcuni, come dire, l'Europa ha svolto una funzione per due millenni, ora questa funzione passerà in Africa, passerà probabilmente in Corea, in Cina, tornerà la Cina dopo due millenni di un millennio di eclisse, di nuovo la grande. Non lo so, però è questo, e quindi noi possiamo parlare di euro, di di Unione Europea, certo, però il problema è molto più profondo, è quello che chiamava il mio amico e filosofo Giuseppe Maria Zanghi la notte oscura dell'Europa, cioè una notte oscura, nel senso dei mistici dell'umanesimo spagnolo, un grande buio che avvolge, perché l'Europa è anche spirito, è anche spiritualità, è uno spirito europeo. Quindi con questo messaggio di grande positività volevo ringraziarvi per questa serata e veramente con tutto il cuore. Gli applausi per l'intervento, le risposte al dibattito del professor Luigino Bruni, docente di economia politica all'Università LUMSA di Roma e coordinatore del progetto di economia di comunione del Movimento dei Focolari. Scrive per diverse testate giornalistiche, tra cui Avvenire. Il suo ultimo libro, edizioni Vita e Pensiero, La foresta e l'albero, 10 parole per un'economia umana, di cui ha discusso col nostro direttore della Difesa del Popolo, Guglielmo Freddi. Domani sera a quest'ora appuntamento con il primo incontro del ciclo Città dell'Ascolta promosso dal Coordinamento Pastorale Vicariale in collaborazione con l'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova sul tema La Speranza Scartata. Domani sentiremo la testimonianza della regista Pupi Avati. Di Dai c'è la parte tecnica, Mirko Cavallini studio e redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.